Inizio con due brani ambient, il primo della musicista statunitense Juliana Barwick e si basa principalmente sulla voce che campiona e moltiplica in modo sperimentale. Ascoltiamo un brano tratto dal suo secondo album che si chiama Bode. Nine Inch Nails sono un gruppo che fa principalmente musica industrial rock. Fondato a Cleveland nel 1988 dal cantante e polistrumentista Trent Reznor, e oltre a vari generi sperimentano con la musica elettronica, come nel brano che stiamo per ascoltare, Ghost E9. Il musicista inglese Simon Green, il cui nome d'arte è Bonobo, usa una grande varietà di strumenti e si produce gli album da solo. Il brano che vi faccio ascoltare si chiama Noctuary. forte, c'è lo pseudonimo di Kieran Hobden, musicista britannico, e il brano che vi faccio ascoltare si chiama And Then Patterns. Il gruppo di musica elettronica Grey Area è stato fondato a Sydney, in Australia, dal compositore Alex Salter. Ascoltiamo Long Distance. I Lemon Jelly sono un duo musicale britannico di musica elettronica e oltre a vari album hanno anche composto musica per videogiochi, in particolare del gioco The Sims. Ready. Nervous tension. Nervous tension is an unseen enemy of the human mind. Nervous tension can cause you to lack confidence in yourself, to lose your powers of concentration, and to be inefficient in your work. Nervous tension can prevent you from relaxing, spoil your leisure hours, and rob you of the sleep you need at night. Nervous tension. Sono un noto duo musicale fondato nel 1995 a Versailles, in Francia. Ascoltiamo Do the Joy. We'll be right back. Ulrich Schnaus è un musicista tedesco. Il suo sound va dall'indie elettronica al drum and bass. La traccetta che ho scelto è On My Own. Aphex Twin è tra i musicisti elettronici più influenti di tutti i tempi e ha riscritto i canoni della musica elettronica. Ascoltiamo un brano tratto da un suo album Analord 04, uscito nel 2005, Crying in Your Face. Ellen Alien è una musicista elettronica di Berlino e anche DJ, e il brano che vi faccio ascoltare si chiama It's.mp. Kalkbrenner è cresciuto a Berlino, nella parte est della città, prima della caduta del muro, ed è qui che inizia a comporre musica techno già nella prima metà degli anni 90 con il suo amico Sascha Funk. Nel 2008 è il protagonista del film Berlin Calling, in cui interpreta il ruolo di Icarus, un disc jockey in un periodo di declino dopo aver raggiunto la fama internazionale. Per questa pellicola Kalkbrenner ha prodotto la colonna sonora, della quale vi faccio ascoltare il brano Square One. We'll be right back. Ricardo Villalobos è un musicista e disc jockey cileno. È conosciuto per il suo contributo artistico nei generi minimal, micro house e techno. Ascoltiamo Fitzhauer Ziehauer. Ascoltiamo ora il brano del musicista britannico James Holden del genere lo-fi techno, cioè eseguito con strumenti con sound elettronico grezzo. Si chiama Idiot. Ora ascoltiamo un brano techno minimal del musicista belga Marco Bailey che si chiama Musica. Deadmau5 è un noto musicista e DJ canadese. Ascoltiamo Trepid. E ora cambiamo genere con i Cane Matto, che è un gruppo composto da due musicisti inglesi e un DJ italiano, e fanno drum and bass. Il brano si chiama Ain't Nothing to It. Ora abbassiamo un po' i BPM, cioè i battiti per minuto, dei Fourtet Hands. Per concludere vi metto il brano del gruppo francese Air, Le Voyage de Penelope.